Bella Caster. Qua. Sì. Qua. Qui. No, è la gola in più. Oh, devo dire un a tutti i ragazzi benvenuti in questo nuovo video. No, no, occhio. Oh. Quanto? 2 euro. Quanto?